Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa 87.9 in FM, ovviamente in streaming su www.ondarossa.info. Con straordinario tempismo facciamo la prima trasmissione sull'acqua, sui movimenti per ripubblicizzare l'acqua, nel senso di renderla pubblica, non nel senso di pubblicità. Subito dopo l'accoglimento da parte della Corte di Cassazione dell'ammissibilità dei referendum. Lascio subito la parola a Paolo per avere non solo informazioni su come si stanno muovendo i comitati per l'acqua pubblica, ma anche su altre questioni, altre polemiche, ovviamente alle mosse della controparte, evidentemente preoccupata, molto preoccupata, che questa volta il referendum possa raggiungere il quorum e quasi sicuramente, se si raggiunge il quorum, vincere. Ben ritrovate, ben ritrovati a tutte e tutti. Sì, finalmente c'è stato, diciamo, il via libera definitivo ai referendum sull'acqua. Quindi possiamo dire, a partire da mercoledì scorso, che i referendum si faranno. Dobbiamo a questo punto solo attendere la definizione di una data che dovrà avvenire molto probabilmente nei prossimi 2 mesi. Diciamo che c'è tempo fino a inizio di aprile per il Presidente della Repubblica per definire la data di indizione dei referendum. Ecco, scusami, però la data va definita in accordo con il governo. Sì, è il governo che sostanzialmente segnala al Presidente della Repubblica la data in cui tenere il referendum. Il Presidente della Repubblica emana il decreto di indizione del referendum. Ecco, e per chiarire ulteriormente, siccome si parla ormai da mesi di elezioni anticipate, sì, la scadenza dei primi di aprile praticamente sarebbe la stessa entro la quale il governo eventualmente dovrebbe indire le elezioni anticipate a giugno, giusto? Sì, cioè se si viene sciolta una Camera o tutte o entrambe le Camere e si va a elezioni anticipate, il referendum automaticamente slitta di un anno e quindi in realtà a norma di legge non si potrebbe tenere nel 2011 ma solo, diciamo, nella primavera del 2012. Ora però sappiamo che a questo già ci sono state delle eccezioni nella storia, diciamo, anche abbastanza recente, in particolar modo il referendum del nucleare, che avevamo già detto anche l'altra volta, forse si tenne nel novembre dell'anno del 1987, proprio in deroga alla legge sul referendum, che prevede invece che si tenga solo in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno. Quindi, anche perché c'era stato a Chernobyl. C'era stato a Chernobyl, infatti diciamo, l'argomento era abbastanza, diciamo così, caldo in virtù di Chernobyl l'anno precedente e in virtù che comunque era un argomento assai assai, diciamo, importante per gran parte dell'opinione pubblica. Però pensiamo che anche per noi, diciamo, per tutti quelli che credono che l'acqua debba essere pubblica, sia una richiesta da avanzare nel momento in cui semmai ci dovesse essere una crisi di governo. E ora, che cosa ha detto la Corte Costituzionale? Non la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale il 12, ha ammesso 2 dei 3 quesiti. A scanso di equivoci c'è da ribadire, visto che i mezzi di comunicazione, televisioni e quant'altro, c'è chi ha detto che il comitato sia acqua pubblica, che è una delle realtà del comitato promotore, o addirittura alcuni TG li hanno intestati al buon e vecchio Antonio Di Pietro, e assolutamente no. I referendum che sono passati sono quelli delle tante realtà legate più o meno al forum italiano dei movimenti per l'acqua, quindi quelli dei movimenti per l'acqua che da anni si battono per ripubblicizzare il servizio idrico in Italia. Diciamo, è stata una duplice vittoria, sia perché appunto sono stati ammessi 2 quesiti comunque importanti per far sì che si torni a una gestione pubblica e partecipata dell'acqua in Italia, ma anche perché, diciamocelo, visto quello che era successo con Antonio Di Pietro, è stato, diciamo così, sconfitto sul campo sia durante la campagna di raccolta firme per il risultato straordinario che abbiamo raggiunto con 1.400.000 firme, ma anche perché la Corte Costituzionale ha definito il suo quesito inammissibile, quando invece a detta sua e dei suoi, diciamo così, scagnozzi, il loro quesito era stato, diciamo, fatto proprio perché i nostri erano, diciamo, a forte rischio di incostituzionalità. Insomma, smentito, diciamo, dai fatti, poi, che invece era assolutamente solo un quesito concorrenziale a quello dei movimenti. Quindi i legali dell'IDV possono fare concorrenza a Ghedini? Assolutamente, diciamo. sono diciamo, quasi sullo stesso piano. Che cosa comporterà, diciamo, questa decisione? Comporterà che il primo quesito è quello, diciamo, che riguarda il decreto Ronchi, quindi l'abrogazione totale del decreto Ronchi, che porta che sancisce la totale e definitiva privatizzazione dell'acqua, in quanto obbliga alla privatizzazione forzata, ma, diciamo, riguarda anche altri servizi pubblici locali come il trasporto pubblico regionale e la gestione dei rifiuti. E il secondo quesito che è passato invece è quello che riguarda la costruzione della tariffa e l'eliminazione della parte in cui si definisce la possibilità di far profitti sull'acqua, la cosiddetta adeguata remunerazione del capitale investito. Non è stato dichiarato ammissibile un quesito, il quesito che riguardava invece l'abrogazione dell'articolo 150 del decreto ambientale, in cui si diceva, del 2006, in cui veniva detto che l'affidamento del servizio idrico poteva essere fatto a tre forme di società di capitali, quindi stiamo parlando sempre di società private, quindi quelle interamente pubbliche, quelle misto pubblico-private o quelle totalmente private. Diciamo, quello è stato poi il decreto che aveva dato formalmente avvio alla privatizzazione in Italia, cioè quello secondo cui ad oggi sono stati fatti tutti gli affidamenti in essere in Italia. Questo non è stato dichiarato ammissibile, e effettivamente era un quesito importante perché avrebbe ricondotto automaticamente all'unica possibilità di gestione, ossia quella pubblica, e quindi effettivamente, diciamo, è un po' un problema, nel senso che, passando i due quesiti che sono rimasti, comunque non sarà molto difficile per soggetti privati gestire il servizio idrico, perché non avranno la possibilità di far profitto, quando, diciamo, è il codice civile stesso che definisce le SPA come quelle società che si costituiscono e mettono in comune, diciamo, il proprio capitale per produrre degli utili. Ecco, ricordiamo qual è la percentuale garantita: il 15% di profitto garantito dalle leggi dello Stato sul SPA, giusto? Diciamo che effettivamente arriva anche al 15%. La legge parla del 7%, quindi il 7% è quella percentuale per cui a noi, attraverso la bolletta, ripaghiamo il profitto. Minima garantita. Sì. In alcune zone, diciamo, in alcune regioni il rischio di impresa non c'è, non perché c'è. Comunque guadagnano. Comunque guadagnano per legge. E quindi, comunque, anche solo con questi due quesiti, a livello anche giuridico sarebbe molto difficile, perché io, come soggetto privato che ho, diciamo, tra virgolette, legittimamente l'intento di far profitti su qualcosa, in questo caso no, perché comunque sarebbe stata abrogata quella parte che glielo consente. E poi c'è da tenere sempre a mente il fatto che dei referendum hanno, diciamo, al di là delle norme che effettivamente vanno ad abrogare, hanno un alto valore politico, nel senso che questi saranno i referendum appunto, in cui si chiederà ai cittadini e alle cittadine di schierarsi sull'acqua pubblica, e quindi, se vinceranno i sì saranno per una gestione pubblica dell'acqua. Un po' come è stato anche per il referendum sul nucleare, cioè adesso dai racconti, perché io in particolare ero molto piccolo, però dai racconti che mi è stato fatto sempre sui quesiti del referendum nucleare dell'87, tutti dicevano che a livello giuridico erano praticamente quasi che non c'era mai riportata la parola nucleare, ma si andava, diciamo, a eliminare alla base un minimo quelle norme che avrebbero permesso di sviluppare fino in fondo l'energia nucleare in Italia. Però il senso politico di quel referendum era che l'Italia doveva, diciamo, essere esente dall'energia nucleare. Volevo farvi una domanda che secondo me sarà centrale nella campagna degli avversari, cioè il fatto che pubblico viene assimilato a statale, a inefficiente, a una cosa che appunto, siccome non funzionava, i governi precedenti hanno stabilito di introdurre il privato per garantire maggiore efficienza. I comitati cosa rispondono a questa prevedibile strategia di disinformazione? I comitati sono già stati attaccati su questo mentre facevano raccolta firme e la risposta univoca è stata che innanzitutto lungi da noi difendere un tipo di pubblico a raffone. Gli stessi comitati che raccolgono le firme, hanno raccolto le firme e adesso sostengono il referendum, sono gli stessi comitati che tante volte in tante vertenze territoriali ambientali, sia sull'acqua ma anche su altri temi, si sono trovati contro alle proprie amministrazioni comunali, provinciali, e su questioni di servizio idrico, ma anche su altre questioni, amministrazioni molto spesso di centrosinistra. Quindi questa assimilazione tra i comitati per l'acqua pubblica che difendono la parentopoli è infondata. L'altra cosa che rispondiamo è che il nostro progetto, sia referendario ma anche la legge di iniziativa popolare che abbiamo presentato nel 2007, che è rimasta a giacere in Parlamento, va verso un altro tipo di pubblico, un pubblico partecipato dai cittadini e dai lavoratori delle aziende che gestiscono il servizio. Questo referendum è un passaggio obbligato per aprire e spianare la strada della ripubblicizzazione. Il nostro obiettivo è più lontano. L'altra obiezione che si può fare, questa è molto terra terra, però sicuramente ci servirà, è che innanzitutto un conto è vigilare sul proprio comune, sul proprio consorzio di comuni, sulla propria provincia che da noi è stato votato, che amministra un certo servizio. Un conto è vigilare su un consiglio d'amministrazione come quello della CEA a Roma, che si riunisce a porte chiuse, che prende le sue decisioni, che non è stato eletto da nessuno. E che è una multinazionale. Che è una multinazionale, che è quotata in borsa, che risponde a criteri e a equilibri, a meccanismi che sono non solo oltre il nostro confine comunale, ma oltre il nostro confine nazionale, e sul quale ovviamente i cittadini non hanno assolutamente possibilità di intervento. Un sindaco a raffone, un amministratore pubblico a raffone è molto più alla portata dei cittadini, molto più sotto il controllo dei cittadini. Altra cosa è che certamente, visto che tutto il servizio idrico è comunque pagato dalla bolletta dei cittadini, esiste, la tariffa è formulata sul full recovery cost, quindi tutto ciò che viene fatto dall'investimento all'erogazione del servizio idrico è coperto dalla bolletta col sistema tariffario attuale. E se in questa bolletta noi ci dobbiamo infilare anche il profitto dei privati, che è il 7%, ma che loro ovviamente sanno bene come far... Ribadiamo, 7% minimo. Minimo, è appunto, che quindi minimo, tra l'altro minimo sugli investimenti promessi a inizio gestione. Cioè io gestisco questo servizio, dico che investirò tot e nella tariffa si inserisce il 7% di tot. Come Marchionne, investo 18 miliardi. Cioè, voi insomma, intanto... l'hai scritto qualche parte? No, fidatevi. Vabbè. Voi intanto datemi i soldi, poi ci pensiamo. Quindi sicuramente se si toglie già questo balzello, certamente il servizio sarà perlomeno gestito più in economia, perché non ci sarà più bisogno di garantire il 7% a nessuno. Quindi sarà quell'eventuale surplus che ci sarà, dovrà per forza essere reinvestito nel servizio stesso, perché l'obiettivo dell'amministrazione deve essere quello. Non ci sarà più nessuno che se lo deve mettere in tasca e sicuramente sarà un grosso compito compito dei cittadini, noi questo lo diciamo, è anche un'assunzione di responsabilità per i comitati che appoggiano il referendum, perché saranno poi gli stessi comitati che dovranno vigilare sul seguito del referendum e sulla gestione del servizio. Dovranno fare... Perché non è soltanto il controllo di tipo elettorale rispetto al sindaco e alla giunta, ma anche, da quello che so, verrà proposto i meccanismi di controllo dal basso continuativi, quindi i comitati appronteranno e degli strumenti e dei momenti di verifica dell'operato di queste amministrazioni pubbliche, no? Sì, assolutamente. In realtà questa cosa, laddove le situazioni sono più critiche, è una cosa che è già in atto. Tante questioni anche di illegalità sulla gestione del servizio idrico, pensiamo a Aprilia che è vicino a Roma, sono state messe in luce e sono arrivate nei tribunali, o a Frosinone, sono arrivate nei tribunali grazie al lavoro dei comitati. Ovviamente i comitati quindi stanno già svolgendo un ruolo di controllo, e naturalmente un conto è doversi imbarcare in una causa contro Acqualatina, contro Veolia, e un conto è dover andare dal proprio sindaco e dire: oh, ma come lo stai gestendo questo servizio? Sì, adesso magari facciamo una prima pausa e poi ci ritroveremo con un contatto, una testimonianza dalla Calabria, e i compagni calabresi ci diranno un po' come quello che sta succedendo nella loro terra. Vi ricordo il numero di telefono della radio, non chiamate subito comunque perché appunto avremo una corrispondenza, 06 49 17 50, vi facciamo ascoltare un pezzo molto famoso del vecchio Lou Reed. Sì, ben ritrovati e ritrovati. Dovrebbe essere in collegamento Alfonso. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao Alfonso. Allora, ciao. Una testimonianza dalla Calabria per due questioni principalmente. Una è questa proposta, capire anche a che stato è, di riorganizzazione a livello regionale del servizio idrico, e quindi la regione sembra che abbia avanzato di unificare l'ATO, cioè l'ambito territoriale ottimale. Sì. Quindi che cosa stanno proponendo e che cosa il coordinamento regionale calabrese Bruno Arcuri sta mettendo in campo per opporsi a questa richiesta, questa proposta? Allora, per quanto riguarda la costituzione di un ATO unico, c'è da fare la premessa che in Calabria la situazione è particolare, perché la gestione del servizio idrico nella nostra regione è divisa in due parti per quanto riguarda la fase, diciamo, dell'acqua potabile. C'è una fase cosiddetta di adduzione, cioè dalle sorgenti fino ai serbatoi a monte dei centri abitati, che è in capo alla Sorical, una società mista pubblico-privata. E poi, per quanto riguarda la distribuzione, cioè dai serbatoi a monte delle città fino ai nostri rubinetti, ci dovrebbero essere delle società che dovrebbero essere stabilite dagli ATO, che fungono da enti gestori. Ora, la Sorical è una società mista pubblico-privata, in cui la parte privata è la società, la multinazionale molto nota Veolia, che non solo è leader mondiale per quanto riguarda la gestione dei servizi idrici, è la stessa società che nel Lazio conoscono molto bene, quelli di Latina in particolare, la società di Acqua Latina, ma è anche una società leader per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e gli inceneritori. Infatti in Calabria l'unico inceneritore che è realizzato, quello di Gioia Tauro, è gestito da una società che dipende di fatto dalla Veolia. La stessa sia in Calabria a diverse discariche sparse sul territorio, quindi una multinazionale che ha un peso molto importante in Calabria, e soprattutto c'è da pensare, da riflettere come si interfacciano, come possa interfacciarsi gli operatori pubblici, gli impiegati, i dipendenti, i funzionari regionali, quando vanno a interfacciarsi con le persone che fanno parte di questa società, che ha le mani in pasta su così tante questioni fondamentali per la gestione ambientale della nostra regione. Bisognerebbe pensare a questo in generale, e io ritengo per qualsiasi regione, diciamo, si consideri questo tipo di situazioni, in Calabria in modo particolare, perché sapete che ci sono molte problematiche legate anche un po', diciamo, al problema della rappresentanza in generale, poi legate agli interessi che molti poteri forti all'interno della nostra regione rappresentano o si autorappresentano. Per quanto riguarda, fatta questa lunga, spero non troppo lunga, premessa, la realizzazione di un ATO unico, qui c'è da parlare di un filo chiaro, un filo abbastanza preciso di trasversalità che lega la politica calabrese alla privatizzazione dell'acqua. È un disegno che non ha colore politico, perché la vecchia giunta di centrosinistra, la giunta Loiero, aveva ventilato la possibilità di costituire un unico ambito regionale, e in pratica questo sta per essere attuato dall'attuale giunta Scopelliti, che è una giunta di centrodestra. Noi pensiamo che la realizzazione del lato unico voglia dire fondamentalmente cedere anche la parte legata alla distribuzione alla multinazionale francese Veolia, perché ci sono forti sponsor a spingere per questo. L'aspetto più inquietante è che si verificherà forse il superamento del rapporto società di gestione comune calabrese. La Sorical vendeva l'acqua ai comuni fino ad oggi, e si passerà al rapporto diretto società di gestione cittadini. Se adesso gli aumenti che noi come coordinamento calabrese acqua pubblica Bruno Arcuri, gli aumenti delle tariffe che riteniamo illegittimi, non si scaricavano direttamente sui cittadini, ma andavano a scaricarsi, diciamo, sui comuni e sulle casse comunali, che in qualche modo potevano fare da filtro, noi temiamo che con questo passaggio il filtro da parte dei comuni rispetto all'aumento delle bollette non potrà più esserci. Del resto, anche se la situazione è la stessa quella attuale, ci sono problemi grossi da parte dei comuni a mantenere basse le tariffe del servizio idrico, perché appunto ci sono delle richieste di incremento molto forti da parte della Sorical, e in particolare ultimamente c'è una richiesta molto serrata di riscossione dei crediti, che si è diciamo concretizzata anche con l'affissione sui muri dei comuni che non pagavano quanto era richiesto dalla Sorical, di manifesti in cui... Ecco Alfonso, scusa, ti interrompo un attimo proprio per chiederti su questo argomento del rapporto con i comuni. Ci è giunta voce che qualcosa di molto problematico è successo proprio nei comuni di Sellia Marina e San Lorenzo del Vallo. Ci puoi dire che cosa è successo in questi comuni? Sì, senz'altro. Voi interrompetemi quando volete, ovviamente. No, è molto interessante, vai tranquillo. Allora, cosa è successo nei comuni Sellia Marina e San Lorenzo del Vallo? Allora, un'altra piccolissima premessa. La Sorica l'anno scorso si è scoperto che ha fatto un mutuo con una banca irlandese, la banca DEPFA, famosa per lo scandalo, tra l'altro, dei derivati finanziari, di 240 milioni di euro. A parte il fatto che non si sa chi è il garante di questo mutuo, se il discorso fosse lo stesso di quello fatto a Latina, scopriremo tra qualche tempo che i garanti sono i cittadini calabresi, però diciamo che adesso questo ancora non si sa. Da quando è stato fatto questo mutuo, la Sorical ha chiesto sempre con maggiore forza il recupero dei crediti pregressi ai singoli comuni. E qual è la strategia che loro utilizzano? Prima ti chiedono di recuperare il credito fissandoti una certa cifra mensile, per esempio per quanto riguarda il comune di Cosenza. Adesso noi sappiamo che il comune sta pagando in rate di 18 mesi una tariffa extra di 350.000 euro e passa. Immaginate cosa vuol dire questo in un periodo di crisi, soprattutto per le amministrazioni comunali. Dopo che hanno stabilito questa sorta di contratto, cosa accade? Che puntualmente il comune non riesce a rispettare i patti. Allora la Sorica dice: va bene, non fa niente, rifacciamo un altro contratto che però dilaziona il debito, però poi è più oneroso. Quindi siamo a contratti quasi capestri. Questo va avanti per due o tre volte, fino a quando noi pensiamo accadrà che, senza colpo ferire, la società Sorical prenderà il possesso anche delle reti di distribuzione. A Sellia Marina è accaduto proprio questo ultimamente. C'era un debito che si era calcolato intorno al milione di euro. La Sorical ha detto che non fa niente, ci accontentiamo di 500.000 euro, però ce li dovete dare subito. E quindi questo comune di Sellia ha dovuto dare un acconto di 100.000 euro entro lo scorso 28 novembre, e entro la fine di questo mese deve dare in un'unica rata i restanti 400.000 euro. La cosa strabiliante in tutto questo è che l'avvocato del comune sosteneva che questa transazione è stata fatta nell'interesse del comune stesso, e non hanno tenuto conto di ciò che noi come coordinamento acqua pubblica, ma anche insieme al Codacons, insieme ad altre organizzazioni nella regione, andavamo dicendo circa la necessità di esigere la restituzione di parte delle tariffe già pagate, perché mentre non essendoci servizio idrico integrato in Calabria, l'aumento tariffario deve essere stabilito per legge dal CIPE, e deve essere stabilito fino al 2008 un aumento nella misura massima del 5%, nello stesso periodo si è avuto in realtà un aumento tariffario suggerito dalla Sorical, però formalmente realizzato dettato dalla Regione Calabria attraverso il bollettino regionale, il BUR Calabria. C'è stato un aumento che invece di essere del 5% è stato del 21%. Rispetto a questa battaglia noi siamo riusciti a portare in giudizio la Sorical solo grazie al comune di Borgia, che è un comune in provincia di Catanzaro, però noi speriamo che a breve si aggiungeranno altri comuni anche del Cosentino. Per quanto riguarda San Lorenzo del Vallo, proprio per questa logica diciamo di richiesta di restituzione del credito fatti in maniera sempre più forte, si è arrivato a questo comune di San Lorenzo, così come in precedenza si era arrivati al comune di Bisignano, al comune di Frascineto, a ridurre la fornitura idrica, arrivando quasi al livello di non dare più l'acqua. Il comune di San Lorenzo del Vallo è ricorso al tribunale di Castrovillari, il quale tribunale ha ordinato alla Sorical di ripristinare immediatamente la fornitura d'acqua. Qui è significativo il fatto che si è fatto riferimento all'articolo 2 della Costituzione, cioè la tutela, quello che tutela i diritti inviolabili. Ha rilevato tra l'altro il tribunale di Castrovillari come sia sancito diciamo il principio per cui la stessa, anche se l'utente è moroso, questa non è una ragione sufficiente a giustificare la sospensione di fornitura di un bene primario come l'acqua. Questo per quanto riguarda il comune di San Lorenzo del Vallo, ma cose simili sono accadute in precedenza anche per quanto riguarda il comune di Frascineto, per il comune di Bisignano. E quindi Alfonso, possiamo dire che c'è in atto quasi una forma di strozzinaggio, per riassumere, nei confronti dei comuni da parte del... Noi giornalisticamente la vediamo così, si porta avanti un discorso ambiguo da questo punto di vista, per cui viene ribattuto sui giornali che l'acqua non si può dare gratis ed è giusto pagare l'acqua. Rispetto a questo siamo d'accordo tutti, il problema è... E come l'acqua. Alfonso, certo. Noi ti ringraziamo perché ci è rimasto poco tempo, comunque ci auguriamo tutti che la campagna referendaria spazzerà via anche gli speculatori calabresi. Grazie mille e a presto. E francesi. Certo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Facciamo un'altra pausa, l'ultima pausa, e poi torniamo con considerazioni più generali e parleremo un po' già delle polemiche che si sono avviate in questi giorni sui referendum. Ella Fitzgerald. Back in the days of knights in armor, there once lived a lovely charmer. Swimming in the Rhine, her figure was divine. She had a yen for all the sailors, fishermen and gobs and whalers. She had a most immoral eye. They called her Lorelei. She created quite a stir, and I want to be like her. I want to be like that gal on the river who sang her songs to the ships passing by. She had the goods and how she could deliver the Lorelei. She used to love in a strange kind of fashion, with lots of hate, ho-de-ho, hi-de-hi. And I can guarantee I'm full of passion, like the Lorelei. I'm treacherous, yeah, yeah. Oh, I just can't hold myself in check. I'm lecherous, yeah, yeah. I wanna bite my initials on a sailor's neck. Each affair has a kick and a wallop. For what they crave, I can always supply. I wanna be just like that other trollop. Allora, sì, ben ritrovate di nuovo e ritrovati. E allora, proseguiamo un po' per chiarire anche in merito a quella che è la discussione che già si è avviata su vari mezzi di comunicazione sui referendum per l'acqua pubblica. Sin da subito, sia in alcuni telegiornali, ma poi nei giorni successivi, il noto quotidiano di Confindustria Sole 24 Ore spostava l'attenzione dei lettori e delle lettrici sul fatto che questi referendum non erano più sull'acqua, che il referendum per l'acqua pubblica era stato bocciato dalla Corte Costituzionale, ma che sostanzialmente si erano imbrogliati e ingannati i firmatari, perché il primo quesito riguardava tutti i servizi pubblici locali, non solo quello idrico, e che l'ultimo era un quesito così per far mantenere le tariffe basse, insomma questioni di poco conto e che quindi spostavano l'attenzione da un'altra parte. Lo stesso oggi c'è un editoriale di Massimo Giannini, editorialista della Repubblica, su Affari e Finanza, in cui praticamente ormai sposa come un copione la tesi, diciamo, dei Minzolini sulla RAI, Confindustria sul Sole 24 Ore, e Giannini la riprende sulla Repubblica. Disinformazione all'opera, come dice Silvio. Siamo una repubblica sovietica. Sì, in questo diciamo che si vede qual è lo schieramento, no? Cioè, da una parte, voglio dire, Massimo Giannini è un cosiddetto giornalista legato a abbastanza ambienti PD, così, moderatori, riformisti, e si schiera insieme alla Confindustria, quindi ai poteri forti, alle lobby finanziarie, e poi ovviamente difende a spada tratta una riforma del ministro, in questo caso un ministro Fitto, perché forse Ronchi, finora è stato il decreto Ronchi, invece adesso, visto che Ronchi non è più ministro, quindi non conta, conta poco, poi è un traditore e quindi diventa un finiano, non è neanche responsabile, un irresponsabile, manco un finiano responsabile, e quindi ormai l'hanno declassato e quindi è diventata la riforma Fitto, e quindi diciamo proprio come la trasversalità, no, degli interessi, e comunque questo sarà quello che tenteranno di fare, di spostare l'attenzione su appunto una riforma dei servizi pubblici locali, che si vogliono bloccare le riforme in Italia, che non si può andare verso le liberalizzazioni che sono la panacea di tutti i mali, infatti tutti ce ne siamo accorti come si sta meglio con le liberalizzazioni, le lenzuolate di Bersani, tutti abbiamo visto come diciamo ci sono stati garantiti maggiori servizi pubblici e soprattutto a costi diciamo sempre più bassi, e quindi diciamo è questo un po' quello che stanno tentando di fare. Senti, io pongo però un problema che avremo di fronte, Onda Rossa farà la sua parte, ma chiaramente la potenza di fuoco della disinformazia è enorme, quindi il problema dell'accesso ai grandi mezzi di comunicazione da parte dei promotori del referendum, a che punto stiamo? La questione è alquanto difficile, nel senso che quando si andrà a definire proprio il referendum, per legge il comitato referendario ha diritto a degli spazi nelle varie tribune politiche in cui si parlerà dei referendum, che ovviamente però sono degli spazi ormai relegati ad orari assolutamente improponibili. Ma per nel cui... frattempo, diciamo che se il governo decide all'inizio di aprile, per i prossimi 3 mesi la propaganda contro avrà campo libero, nel senso che nonostante appunto noi oggi potevamo anche chiedere, come abbiamo fatto diciamo il giorno dopo la decisione della Corte Costituzionale, abbiamo mandato lettere di rettifica a vari quotidiani che appunto dicevano che erano passati i quesiti dell'Italia dei Valori sull'acqua, non rispondono neanche, nel senso che non ti prendono neanche anche in considerazione, quindi bisognerebbe passare diciamo a questioni più legali, alle vie legali, e così oggi potremmo chiedere diciamo diritto di replica anche a Affari e Finanza di Repubblica. Il problema è che non, se te la danno te la danno nelle lettere diciamo inviate al quotidiano, che vengono messe in ultima pagina come diciamo concentrato di quello che noi andremo a dire, quindi questo è un problema enorme. Però teniamo conto anche dei numeri, no? Se noi calcoliamo un attimo quanti sono i lettori dei giornali e quanti sono invece gli internauti che possono, no, collegarsi con i blog, eccetera. Certo, si tratta di trovare le formule per farsi vedere, farsi leggere, ma in effetti da un punto di vista numerico, se mettiamo per un attimo tra parentesi il pubblico televisivo, sicuramente è battibile in termini di numeri quello dei lettori dei giornali, sì, rispetto a chi usa internet, sì, no? Il grosso problema è quello di chi vede solo la televisione. Vede solo la televisione e ormai è assolutamente condizionato. Però sicuramente noi abbiamo due strade. Internet, diciamo, è il web e la rete, e quindi sfruttare al meglio quelle che sono le possibilità che ci dà, ci consente. E anche le radio di movimento. Le radio di movimento, no, perché quello, diciamo, lo mettiamo da un'altra parte, nel senso tutte le realtà che sostengono la causa, diciamo, più attivamente. E quindi ci sono le radio, ci sono le riviste, i quotidiani e quant'altro, diciamo, è più vicino a noi. E poi quello su cui si punterà molto è proprio l'attivismo, la mobilitazione dal basso, l'informazione, le iniziative in modo capillare che il Movimento per l'Acqua è in grado di mettere in campo. È ovvio che poi bisognerà trovare anche i modi per poter rispondere in alcuni casi a queste rasoiate che stanno già iniziando a dare in questi giorni. Sì, no, volevo aggiungere che chi guarda solo la televisione comunque al mercato ci andrà a fare la spesa e noi saremo lì con i banchetti, saremo lì con il volantinaggio, come siamo stati lì durante la raccolta firme che è stata fatta assolutamente nel silenzio dei grandi media e nell'attenzione però dei media locali che sono stati una grossa forza. Le TV, le radio locali, i giornali locali sono comunque molto, molto seguiti da una popolazione che è trasversale e quindi quella sarà la nostra forza. Già che parliamo di locali, forse io darei anche un appuntamento con gli enti locali invece che appunto sono un'altra componente della campagna referendaria, che sono i famosi sindaci che l'ex ministro Ronchi ci accusava di aver preso in giro con la nostra campagna referendaria. Evidentemente aggiratori di sindaci magari no, purtroppo non abbiamo questa capacità. Evidentemente i sindaci si sono sentiti presi in giro da ben altre politiche adottate a livello nazionale e quindi il prossimo 21 gennaio, venerdì, nel pomeriggio, ci sarà appunto la terza assemblea nazionale del coordinamento enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico. Si svolgerà a Roma presso la sala di Liegro della provincia di Roma, quindi magari avremo anche modo di ricordare questo appuntamento. E via 4 novembre. Quindi alla provincia, alla provincia, Palazzo Valentini. Sì, a Palazzo Valentini. E quindi segniamolo sulle nostre agende dell'acqua. Venerdì prossimo sarà comunque un'occasione in cui gli enti locali. Scusa, ripeti l'orario? E alle 15, venerdì 21 alle ore 15, sarà un'occasione in cui gli enti locali si confronteranno su questa cosa e sia per le realtà di movimento che anche per i curiosi è sicuramente un momento interessante, perché poi sono loro in prima linea a discutere con i cittadini e a rendere conto ai cittadini. Partirà una campagna forte per il diritto al voto nel 2011 e quindi, come diciamo prima, vogliamo votare comunque diciamo di qualsiasi morte muoia Berlusconi in quest'anno e poi chiederemo... Ricordiamo che è possibile, molti probabilmente non lo sanno, anche se dovesse cadere il governo il referendum si potrebbe fare, come è successo già. Non è vietato da nessuna legge. Oddio, bisogna esistere una legge deroga, quindi si possono fare, se c'è la volontà politica si fa tutto, poi soprattutto in Italia se ne fanno. E però quello che noi chiederemo con forza è che questo referendum si tenga accorpato alle amministrative che ci sono quest'anno. Senti, ma il problema della moratoria? Il problema della moratoria è un'altra questione che ovviamente stiamo portando avanti, è che proprio diciamo quelli che sono i dettami, le scadenze del decreto Ronchi non vengano attuate fino allo svolgimento dei referendum, ossia l'ingresso dei privati al 40% nelle società ancora interamente pubbliche, che debba avvenire o era, diciamo, il 31 dicembre scorso, entro il 31 dicembre scorso, che ancora, diciamo, praticamente da nessuna parte si sono riusciti ad attuarlo, e entro la fine di quest'anno. Quindi noi quello che diciamo è che queste scadenze debbano essere rimandate di un anno, quindi al 2012, in modo che si possa tenere il referendum e che quindi i cittadini e le cittadine italiane possano decidere senza una mannaia sopra la testa che gli impone, diciamo, una... Dovrebbe essere il governo a rispondere o il Parlamento? Dovrebbe essere il governo. Okay. Una richiesta che noi facciamo è che venga inserito nel decreto mille proroghe che attualmente è in discussione al Senato. Non si può essere molto ottimisti, allora. Assolutamente, diciamo, no, anche perché d'altra parte c'è tutto l'interesse invece ad accelerare le privatizzazioni, anche per diminuire quello che sarà l'effetto, diciamo, del referendum. Però ovviamente ce la stiamo giocando anche questa, e quindi attendiamo che entro fine febbraio venga approvato il mille proroghe e vedremo cosa c'è dentro. Quindi diritto al voto nel 2011, moratoria sulle privatizzazioni dell'acqua e accorpamento alle amministrative, che non si terranno a Roma ma in alcune grandi città d'Italia, Milano, Napoli e quant'altro, e che quindi questo ci permetta di raggiungere il quorum e quindi anche di raggiungere il sì. Grazie, la trasmissione termina qui per oggi e a lunedì prossimo con Entropia Massima.